Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo mercoledì 7 giugno 2023 e siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna, nonché il web dal quale potete ascoltarci tramite l'apposita app che potete scaricare dal sito radiocittafujiko.it e con la quale ascoltarci all over the world, come si suol dire. Città Fujiko Live Club è la trasmissione che ogni mercoledì per un paio di ore vi propone musica dal vivo, trasmissione che inizia sempre con una novità e anche oggi non è da meno, una novità che vi avevo già preannunciato oramai direi un paio di mesi fa addirittura, perché alla fine di aprile, se ricordo bene, Mr. Neil Young pubblicò due album dal vivo. Uno ve lo proposi a suo tempo, appena uscito, si chiama Under the Rainbow, mentre l'altro ho aspettato un po' a proporvelo, perché per non inflazionare Neil Young, che oramai è uso a multiple uscite discografiche live nel corso del tempo. Ho parlato di Neil Young, ma in realtà questo album è accreditato a una band che si chiamava Dukes, come le anatre, e quindi sarebbe Dax. È una band, chiamiamola così, fittizia, nel senso che è durata praticamente solamente 7 settimane. È stata fondata da, siamo negli anni 70 naturalmente, è stata fondata da un singer-songwriter che si chiama Jeff Blackburn, che è stato colui che ha scritto insieme a Neil Young Hey Hey My My, e comprendeva anche al basso uno dei membri originali dei Moby Grape, che è stata una band molto importante nella musica californiana degli anni 70, che però mi sembra caduta abbastanza nel dimenticatoio, e poi c'era anche un batterista dal nome italiano, Craviotto, che completava il quartetto. Una storia un po' strana, perché Neil Young in quel periodo aveva un contratto con i Crazy Horse, che era la band che l'accompagnava nei tour, un contratto per il quale lui non poteva fare tour all'infuori della sua città, che era Santa Cruz a dire il vero, senza di loro, cioè non poteva andare appunto con i Dax, con i Dukes, con i Dax diciamo, a fare tour negli Stati Uniti, perché c'era questa clausola contrattuale che gli imponeva di non farlo, non poteva assolutamente farlo, per cui i Dax fecero una serie di concerti, non tantissimi addirittura, proprio solo a Santa Cruz, una cosa molto molto strana, molto particolare. Da questa serie di concerti è stato tratto questo album che si chiama High Flying. E da quale ho scelto questo brano che ci andiamo subito ad ascoltare, è un brano che risponde al nome di Gone Down Train. Loro sono i Dukes with Neil Young. We're having a writing contest, whoever can understand the lyrics of this tune can win a prize. Ooh. Coffin stain, hitting hard and fast. Non ho capito molto bene perché, sebbene sappia perfettamente che si dice Dax, mi viene da dire Dux, ma comunque il gruppo è sempre quello, sono sempre le anatre, Neil Young, Bob Mosley, Jeff Blackburn e Johnny Craviotto, che iniziarono a suonare insieme dal vivo il 15 luglio del 1977 e terminarono il 2 settembre sempre del 1977. Una serie di concerti tutti a Santa Cruz, California, perché come ho detto prima Neil Young non poteva uscire dal circondario di Santa Cruz senza i Crazy Horse ad accompagnarlo. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Long Dead Train e l'ho scelto appositamente perché così mi dà l'opportunità insieme a voi di ascoltare brani che parlano di treni. E sapete meglio di me che soprattutto negli Stati Uniti il treno è sempre stato un simbolo di libertà, diciamo, anche in questo senso, di avanzamento verso ovest, di scoperta di nuovi mondi, di distruzione purtroppo dei nativi, ed è omaggiata in tantissimi sensi, in moltissime canzoni sia britanniche che americane, più americane naturalmente che britanniche, E niente, ci sono amori che vanno e vengono in treno, amici che se ne vanno in treno, che tornano in treno, e sapete benissimo, soprattutto quelli della mia generazione, nata e cresciuta Jack Kerouac e On the Road, che il treno appunto era il mezzo principale di movimento per coloro che venivano poi chiamati hobos e che giravano gli Stati Uniti in treno a scrocco, e appunto era un tipo di libertà, chiamiamola così, magari un po' forzata dalle finanze dei protagonisti, ma è sicuramente una cosa del genere. Ma a parte tutte queste chiacchiere, non voglio scendere in particolari, non ho la possibilità di scendere in particolari dei testi, quindi non andremo a studiare i testi, a leggere se cosa parlano di treni. Sappiamo solamente che i brani che ci ascolteremo sono tutti incentrati sul treno, tipo questo che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Stop This Train. Lui è un personaggio che si chiama John Mayer, chitarrista cantante che viene dal Connecticut e che ha avuto una carriera altalenante senza grossi picchi, a dire la verità, fino al 2015, quando fu scelto dai rimanenti Grateful Dead per sostituire indegnamente, dico io, Jerry Garcia nella nuova band che si sarebbe chiamata e si chiama tuttora Dead & Company. Il brano che ci andiamo ad ascoltare arriva da un suo disco solista che è stato registrato a Los Angeles e si chiama Where the Light Is, dove è la luce, e che lo vede partire prima in versione solista acustica, poi con una band che comprende basso, batteria, e che dà un po' di verve al disco. Ma noi ci ascoltiamo la parte acustica, Stop the Train. Lui si chiama John Mayer. Had a talk with my old man, said help me understand. ashtray. Don't form a man to change the place you're in. Don't think I could ever understand. I try. Stop this train. Oh, now once in a while, when it's good, it'll feel like it should. And they're all still around, and you're still safe and sound, and you don't miss a thing. When you're driving away in the dark, yeah, singing, stop this train. I wanna get off and go back home again. I can't take the speed, this thing is moving in. I know I can't, cause now I see I'm never gonna stop this train. Never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Oh, I'm never gonna stop this train. Thank you. Little out of touch, little insane. Forse il brano più famoso dell'intera discografia dei Soul Asylum, band che arriva da Minneapolis, naturalmente Minnesota, attiva dal 1981, ma che ai giorni nostri vede solo Dave Pirner, il cantante, chitarrista, nonché frontman, come membro originale. Questa Runaway Train appare in parecchie edizioni, pubblicazioni, per meglio dire, dei Soul Asylum in versione live, ma ho scelto questa perché è tratta da un album che si chiama After the Flood, album che racchiude un concerto che è stato fatto il 29 giugno del 1997 per raccogliere fondi per le popolazioni alluvionate di Grand Forks Prom, che è una località del Minnesota, sempre, che fu colpita appunto da un uragano con conseguente inondazione. Infatti sulla copertina c'è una foto che purtroppo in questi giorni è diventata molto, molto nota. C'è un campo allagato con una casa completamente circondata dall'acqua e un signore che sta portando una donna in braccio in salvo dall'acqua, purtroppo, come dicevo, molto, molto nota in questi giorni. Il brano si chiama Runaway Train. Ma vi dicevo che anche in Gran Bretagna, isole britanniche per meglio dire, si parla di treni, e ce ne sono diverse canzoni che parlano di questo mezzo di locomozione. Quello che uno di quelli che ho scelto, perché ce ne sono veramente tantissimi, arriva da un grande band che si chiama Cure. Il brano si chiama Jumping Somewhere Else Train ed è tratto da un album che si chiama Bestival Live 2011, registrato all'omonima festival, appunto si chiama Bestival, che si tiene all'isola di Wight. In particolare questa registrazione è del 10 settembre del 2011, Cure. È impossibile non riconoscere i Clash con uno dei loro grandi inni, si chiama Train in Vain, è tratto da un album che si chiama From Here to Eternity. Il brano è stato registrato al Bond International Casino di New York City nel giugno del 1981, quindi fra un po' sarà oggetto di Recorded Today, ma è stato pubblicato appunto in questo From Here to Eternity solamente nel 1999, Love in Vain. Scusate, era Train in Vain. Bruce Springsteen è famoso per le sue canzoni in cui parla di auto, ma ne ha scritte alcune anche sul treno. Questa è una di quelle, viene da una registrazione effettuata a Lisbona nel corso del Rock in Rio Festival, che da qualche anno è messo in atto anche in Portogallo e da quest'anno mi sembra anche in Spagna, quindi si chiama Rock in Rio, ma viene esportato dalla città brasiliana anche in quella che era la madre patria una volta. Comunque il 19 maggio del 2016 Bruce Springsteen e la Hill Street Band erano in concerto a Lisbona in questo festival. Il concerto iniziò alle 2 di notte, e questo ve lo posso assicurare perché c'ero, e fu veramente durissima arrivare dal pomeriggio alle 2 di notte, anche perché prima c'erano delle cose, a parte gli Stereophonics, inenarrabili. Comunque ce l'andiamo ad ascoltare, Downbound Train, Bruce Springsteen e la Hill Street Band. Said your love had never died. You were waiting for me at home. I put on my jacket, I ran through the woods, I ran till I thought my chest would explode. There and clear beyond the highway, in the moonlight our wedding house shone. I rushed through the yard, I burst through the front door, head pounding hard. Up the stairs I climbed, the room was dark, our bed was empty. Then I heard that long whistle whine, and I dropped to my knees, hung my head and cried. buddy of mine has a new movie out, and a new album out, and we're going to play a song. The song is in the movie and on the album, but not our version. You can hear our version right now. Something called Tucson Train. Questa è un'altra canzone di Bruce Springsteen che è stata scritta sui treni, nello specifico sul treno da Tucson, Arizona, naturalmente. Si chiama Tucson Train e il buon Little Steven con i suoi Disciples of Soul l'ha interpretata in questa maniera, secondo me, egregia, molto meglio della versione originale che era contenuta in Western Star del 2019 di Bruce Springsteen. Questa invece appunto è contenuta in Summer Summer of Sorcery Live at the Beacon Theater, triplo album live bellissimo di Little Steven and Disciples of Soul, con questa versione spettacolare secondo me di Tucson Train. Andiamo adesso nell'aristocrazia britannica insieme a un Sir Rod Stewart, che mai avrebbe immaginato di diventare Sir al momento di nascere, diciamo, nella prima infanzia, ma comunque lo è diventato per meriti musicali ed è uno dei cantanti migliori che io abbia mai ascoltato. E qualche anno fa uscì una quadrupla antologia di brani live inediti. Si chiamava Rod Stewart Live 1976-1998 e comprendeva appunto quattro CD infarciti di covers, perché Rod Stewart ha scritto pochissimi pezzi, alcuni molto belli fra parentesi tipo Maggie May, ma ha scritto veramente pochi pezzi, per cui va a tingere al repertorio altrui per proporlo poi sempre alla sua maniera. Capita anche a questo brano di Tom Waits. Si chiama Downtown Train, Sir Rod Stewart. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window, down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all them Brooklyn girls. They try so hard to climb out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight? Your doorway. I stand by your light and past your gate. I stand by the light of the four-way. But watch them as they fall. Oh, baby, you're having them heart attacks. They stare at the corner of, but never when you're back will I see you tonight. Dreams fall like rain on the downtown. train. On a downtown train. On a downtown train. On a downtown. On a downtown. On a downtown. Just a little bit further now. Un classico dei Doobie Brothers, Long Train Running, conosciutissimo in tutto il mondo, tratto da un doppio album che si chiama Rocking Down the Highway, registrato al Starwood Amphitheater di Nashville l'11 maggio del 1996. This one here is about my car, a 51 Pontiac outside, convertible that is. Yeah, made it here tonight, incredible. This old car is like a song, she makes music as she rolls along, and it don't matter if the radio's on. Chevy and a Cadillac, but I trade them all for that pony. Want the kind with the seats for the salt and over the top with the top comes on. This old car is like a song, she makes music as she goes along. It don't matter, your radio's on. This old car is like a song. Well, I tell you, boys, I made my choice, cause I already had a Rolls Royce. Dollar down, it's fucked for gas. You catch me and I'll put it to the floor. You won't see me no more. I'll be gone like I was chasing girls. I'm gonna lift my leg and double clutch. I'll tell that it won't take much. Trade my shirt for a brand new pair of Fender skirts. She ain't black, she got soul. It's a Pontiac to make me roll, bound to make me roll. This old car's like a song, she makes music as she rolls along. It don't matter if the radio's on. This old car's like a song. Big one, cousin. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, 7 giugno 2023, seconda parte che è iniziata come al solito con la novità che vi propongo quest'oggi, novità di una band fittizia che si chiamava The Ducks, che però è diventata famosa solo di recente quando è stata pubblicata come volume numero 2 dell'official bootleg series di Neil Young, perché all'interno di questa band appunto c'era Neil Young. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama Cartoon, da questo quartetto che, come ho detto nella prima parte della trasmissione, è durato pochissimo per motivi, chiamiamoli illegali fra virgolette, solamente 22 shows tutti a Santa Cruz e niente, dagli archivi immensi di Neil Young è uscita questa gemma che comprende brani suoi e brani di Jeff Blackburn, che era un cantautore molto in voga in California all'epoca, e anche di Bob Mosley, bassista originale dei Quicksilver, dei Moby Grape, scusate. Avrò una piccola parentesi, torno alla prima parte della trasmissione che era dedicata a canzoni sui treni, e ce ne sono tantissime, per cui quelli che avete ascoltato nella prima parte era solamente una piccola tranche, appena possibile faremo una seconda trasmissione su canzoni che parlano di treni. Come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel passare degli anni, e dopo la streaming sita versione di mercoledì scorso, in questo 7 giugno invece ci sono veramente tantissime cose e tutte molto molto interessanti. A cominciare dalla prima, siamo nel 1970, spero che non abbiano bisogno di presentazioni, quattro personaggi che nominarono la propria band con i propri cognomi: Crosby, Stills, Nash and Young. Spero vivamente di non dover spiegare chi sono, dirò solamente che il loro album Four Way Street è una pietra miliare nel campo della musica rock live, che rimarrà per sempre uno dei migliori album live mai pubblicati. Fu pubblicato originariamente, a proposito di pubblicazione, come doppio long play nell'aprile del 1971, però nel 1992 è stato ripubblicato, guarda caso, con quattro canzoni in più, una per ognuno dei protagonisti. Così come l'album originale era diviso abbastanza equamente fra brani dei quattro, anche i quattro brani aggiunti sono uno per uno. Ho scelto di farvi ascoltare Stephen Stills, che non è propriamente una delle mie simpatie preferite, ma è sicuramente un grande musicista. Il tutto è stato registrato il 7 giugno del 1970 al Fillmore East di New York City. Il pezzo si chiama Black Queen, Crosby, Stills, Nash and Young. Gonna do a country blues. A little music from back home. I was raised in Louisiana, and there used to be an old black man named Charlie Harris, worked at a feed store, and he'd sit out in the back along about sundown and play kind of like this. Ain't is funny. Black queen, golden hearts. Black queen, till the game of all. Black queen, don't you know? Can't beat aces. All in the black queen. Don't you go bet on the black queen. Come on, have mercy, black queen. My SS will beat you. Thank you. there's a black man like Queen. If he ain't in the hole like Queen, you got some more showing a black queen right now. Don't you go bet on the black queen. Oh, giugno 1970, Crosby, Stills, Nash & Young in concerto, ma come spesso accadeva nella prima parte dello show, quella acustica, c'erano versioni in solitaria. Questa è una di quelle, Stephen Stills con la sua Black Queen, che è tratta dalla ristampa del 1992, appunto, di quel capolavoro che è Four Way Street, che contiene quattro canzoni in più. Questa era una di quelle, appunto, Black Queen di Stephen Stills. Dal 1970 passiamo direttamente al 1980. Abbiamo in concerto una band canadese, un concerto che è stato registrato all'Hammersmith Odeon di Londra, quindi in trasferta per il trio canadese dei Rush, una band che ha avuto un successo strepitoso prima di sciogliersi nel 2018, un successo veramente mondiale, secondo me anche al di sopra dei loro veri meriti, ma sicuramente tanto di cappello, erano una grande band. E il loro album si chiama Permanent Waves, come altri album della loro discografia, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione. Infatti è stato pubblicato nel 1980, nel gennaio del 1980, in occasione del 40° anniversario, dicevo, è stato ripubblicato in doppio CD con allegato un CD con registrazioni live, tipo questa che ci andiamo ad ascoltare, appunto registrata a Londra il 7 giugno del 1980. Uno dei loro brani più famosi si chiama By Thor and There's No God. Loro sono Rush. This is called By Thor and the Snow Dog. Yes! Hammersmith Odeon di Londra, uno dei locali storici della capitale britannica. 7 giugno 1980, Rush in concerto, e questa era By Thor and the Snow God, Dog, che fa parte della ristampa per il 40esimo anniversario di Permanent Waves, uno degli album più conosciuti e più venduti anche da questa band canadese. Un grande bluesman che però pochi considerano, secondo me troppo pochi, si chiama John Mooney. Lui è nato nel New Jersey, a dire il vero, ma vive ormai da tanti anni a New Orleans, in Louisiana, ed è un grande grande personaggio. Insieme ai suoi Louisiana gira il mondo, ma anche in solitario gira il mondo per concerti, per show, per festival. Personalmente l'ho conosciuto al Castel San Pietro in Blues Festival, al quale partecipò due volte, una volta in acustico e una volta invece in elettrico insieme ai Louisiana. Qui siamo in Germania al Berminale Festival a Bremen, naturalmente a Brema sarebbe meglio dire, e il tutto registrato il 7 giugno del 1991. Ci andiamo ad ascoltare un brano scritto da lui medesimo. Il resto di questo album sono 9 brani, sono quasi tutte covers, solo 2 sono suoi. Uno è quello che ci andiamo ad ascoltare, si chiama Maybe Baby, John Mooney and Louisiana. Thank you. but you pick up and started to yell and scream. Oh, but baby, I'm on his ass. Oh, what you say just falls on deaf ears, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, we don't have a time. My pleasure, and we'll have to meet again. We'll have to do this again, won't we? Same time. Except we'll have another album or something, and then we can play for a bit longer. You know, fireworks and shit. Cool. Take care of yourselves, so. cannot get angry in the same way. Vengono da Sheffield, UK, questi Arctic Monkeys che sono diventati molto famosi tramite internet, infatti erano già famosi, tanto che l'uscita del loro album d'esordio fu un super successone. Loro hanno fatto il contrario di quello che fa di solito una band o un artista, che solitamente pubblica un CD con annesso DVD. Qui è al contrario, loro hanno pubblicato un DVD registrato all'Apollo di Manchester e come bonus CD un CD registrato in Texas, esattamente a Austin, in un locale che si chiama Stubbs Barbecue, che è tutto un programma, e che è stato registrato appunto il 7 giugno del 2006. Quello che ci siamo ascoltati era il brano conclusivo, si chiama Certain Romance. Loro erano Arctic Monkeys. L'ultima cosa per Ricordi Today di oggi arriva da una band che ha un nome particolare, si chiama Rock Candy Funk Party. È una band che è stata formata da Tal Bergman, batterista, e Ron DeJesus, chitarrista, che però è diventata più famosa quando ha aggiunto al proprio line-up Joe Bonamassa, un grande chitarrista, lo conoscete sicuramente, è anche uno staccanovista del lavoro, infatti ha fatto un sacco di registrazioni sia in studio che dal vivo, e loro dal vivo hanno fatto in studio hanno fatto tre album e uno dal vivo, che è quello che ho tra le mani, che si chiama Takes New York Live at Iridium. È una musica molto funky, c'è un brano in questo album che si chiama appunto We Want Funky. E niente, sono veramente molto particolari ma molto coinvolgenti. Il brano che ho scelto per voi è una cover di un brano di Herbie Hancock che si chiama Heartbeat. Loro si chiamano Rock Candy Funk Party. We'll be right back. È una cover di un brano di Herbie Hancock, quello che ci siamo ascoltati, Heartbeat. Loro erano Rock Candy Funk Party, l'album Takes New York Live at Iridium, registrato nell'omonimo locale newyorkese il 7 giugno del 2013, a concludere Record Today di oggi. A concludere Città Fujiko Live Club invece ci pensa la novità che vi ho proposto quest'oggi, Neil Young con questa band fittizia che è durata 7 mesi, che si chiamava Dax e che vi ho già fatto ascoltare in precedenza e di quale vi ho già parlato. Il tempo sta stringendo, per cui vi ricordo solamente che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 2 ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 all'incirca, naturalmente dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonico di Radio Città Fujiko e dal web con l'apposita app che potete scaricare dal sito radiocittafujiko.it. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio naturalmente in compagnia, come vi ho detto, dei Dax. L'appuntamento è per mercoledì prossimo. Il brano che conclude questa Città Fujiko Live Club è un brano che si chiama Gypsy Wedding. Ciao a tutti da Nevio. Gypsy Wedding.